my hate mixtape. Tu non mi scappi se pensi che son debole. Tu me le dai, io non rispetto le tue regole. Non sono stronza, ma sono me stessa. Vuoi la guerra? Allora tu sei già sconfitta. Uso la forza, uso il coraggio, uso le parole, ma alla fine è sempre peggio. Mi chiedo spesso la ragione dove sta, se dalla parte mia oppure dalla parte opposta. La pazienza ha un limite e questo l'ho imparato, ma c'è chi un limite l'ha già superato. C'è chi spera nella mia resa, ma non ce l'avrà perché vincerò una pretesa. Volete la pace, io sarò pacifista. Volete la guerra, sarò in cerca di conquista. Volete la fede, ma resterò teista. E se io voglio un sogno, nessuno si realizza. Tu non mi scappi, il duello ormai è bruno. Lo diciamo a Dio, siamo 100 contro 1. Tu non mi scappi, ormai ho la vittoria in mano. E se vuoi scappare, siamo noi che ti lasciamo. Tu non mi scappi se ci provi di nuovo. Se non sarà inferno, allora sarà purgatorio. Tu non mi scappi e non c'è da sperare, perché sarò io a lasciarti andare. Mi dici ascolta, io resto ad ascoltare. Ti parlo sopra perché mi piace argomentare. Non ti sto a sentire se mi parli di cazzate. Se mi darei stimolo ti parlerò di cagate. La vita non la conosco, quindi non posso capire. Per gli altri la vita la devo imparare. Vieni a dirlo tu e vuoi darmi un sostegno, che in 40 anni hai solo perso tempo. Nessuno ti capisce, il motivo è che sei lesa. Vai insieme ai fratelli a fare la donna incompresa. Tutti lo sanno, non si gioca con il fuoco. Ma c'è chi si è bruciato e ci gioca di nuovo. Faccio domande e non ho risposta. Prendete per il culo, bello ora lo fate apposta. Non mi trovi più e vuoi dirmi qualcosa. Vai dalla De Filippi e mandalo per posta. Ho perso un fratello, 16 anni sempre sola. Ma non ho bisogno di gente che mi consola. Ti faccio domande strane, tipo qui. Scusi, andrai da Gerry Scotti e mi passi la parola. Un peso massimo contro uno leggero. Vuoi essere felice? Io una volta lo ero. Non sono intelligente e non ho cervello. Confrontiamo un peso piuma contro un peso netto. Tu non mi scappi, il duello ormai è bruno. Lo diciamo a Dio, siamo 100 contro 1. Tu non mi scappi, ormai ho la vittoria in mano. E se vuoi scappare, siamo noi che ti lasciamo. Tu non mi scappi se ci provi di nuovo. Se non sarà inferno, allora sarà purgatorio. Tu non mi scappi e non c'è da sperare, perché sarò io a lasciarti andare. Tu non mi scappi se ci provi di nuovo. Se non sarà inferno, allora sarà purgatorio. Tu non mi scappi e non c'è da sperare, perché sarò io a lasciarti andare. Perché sarò io a lasciarti andare. Io a lasciarti andare. Perché sarò io a lasciarti andare. Io a lasciarti andare. Io perché sarò io a lasciarti andare.